Sì, sta piovendo. Si sente. Attualmente mi sto uscendo con la posizione per la gamba laterale, Luca. Dove? Ho capito. Aspetta un attimo. Ora. Anche il telefono si aggettare questo Luca, è così perché non sa fare niente. Guarda, allora, siccome non ho una posizione questo microfono, perciò sicuramente nella posizione che era prima, o si era spostato leggermente oppure non lo faceva contatto bene. Gli ho cambiato posizione, andava, era che l'ho aggiustato. Seguo voi, l'LG3, quello vecchio, è uno dei primi. Anche forte come radio, ho capito. Ti sento perfettamente bene. Dappa, andava, era la stazione all'aeroporto. Mi arriva già urlinata, cazzo, vabbè, mi sto ascoltando. Hola. Mia, sempre la stessa la radio, Luca, sì. Cava, sempre la stessa. Però ho notato una cosa adesso. Che mi siete sopramullati con un altarino e mi è passato né l'uno né l'altro. Come Mario? Non lo so. Io sono un pochino latte. Ma il segnale non si conosce. Come vede l'altare il tuo segnale? Guarda, non devo entrare, non devo entrare. E però io sono basso. Ma leggermente più forte, ma leggermente, di segnale. Ma di radio sei più forte di tu. Vediamo un po', parlate assieme, perché poco fa quando ho chiuso la comunicazione e poi ha ripreso Claudio, non ho capito né uno né l'altro. Ma io non sono più forte di radio. No, Claudio è più forte di radio, la sta lì. Perché sono nella posizione della banda naturale, praticamente. Sono senza amplificazione, senza niente. No, il segnale, guarda, è proprio leggermente più basso, insomma, proprio, guarda, poca roba, proprio poca roba. Perché a me passa l'altalino. No, passi tu, cara, no, sai perché sto spiego subito. Siccome due apparecchi erano accesi, è un casino, è stata una sovramodulazione che sicuramente l'altalino, qua nel dipolo arriva più forte di te. Vediamo un po', aspetta, Vai Natalì, fammi vedere tu se arrivi più forte al dipolo, vai. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. 6, 7, 8, 9, 10, hola. Qua passa giù tu, qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora, guarda, Natalì, il dipolo è verso la parte tua. Claudio mi arriva a 3, tu sei 6. Ora l'antenna è più forte di Claudio, ti passa l'antenna. Praticamente l'antenna è verso di lui e di poi verso di te. Cazzo, allucinante. Ma te l'ho detto l'antenna, e di poi secondo l'ho orientato è direttivo. L'antenna essendo verticale, chiaramente è così, capito? Infatti non riuscivo a capire nulla, perché no, un casino, un miscuglio. L'altalino passa nel dipolo, ripeto, tu sei 3 e lui è 6, ha tutto volere fighe aperto, Però l'antenna passi tu, perché l'antenna sicuramente è verso di te. No, è che il dipolo magari è puntato più verso la zona mia, ma col dipolo dove invece è puntato verso Flavio. Ma hai fatto apposta, però beh, come punta così, eh? Hai capito? Ma io te l'ho puntato per fare 10. Adesso bisogna fare quella modifica che ho detto io. Quando questi camici ti metto io non ti dice sul suolo. O solo facciamo una misura per farla invertita e la mettiamo nell'antenna invertita. Kappa, no, allora Claudio ti passa nell'antenna, passa lui. E metti tu passi nel dipolo. Perché tu nel dipolo mi ricevi in polarizzazione orizzontale. Invece a Claudio lo ricevi con l'antenna, lo ricevi in verticale, anche a me con l'antenna ricevi in verticale. Ma vuol dire che sei più aperto per Claudio, la figlia. Kappa. Labo. Infatti per quello non riuscivo a capire niente. Capito, no, continuo a non capire come mai, perché siete troppo vicini voi, siete molto più vicini. Io sono un bel po' distante da Luca, capito? Vabbè, evidentemente c'è sempre quel solito varco che ci fa permette di far funzionare le antenne così. Cava, cava. C'era anche Luca Fitter, vediamo se arriva Luca. famiglia con questo qui. Ma poi 200 watt manco li vedi, tranquillo. E lì ha capito, anche io non lo sto usando quello del 4.4 perché stazionario non è, e quindi cosa lo usi a fare? Se c'è un numero stazionario, perché devo attaccare i cavi e i cavetti per avere perdite, capite? Ma mi hai fatto capire che è quello manuale dell'MSG o della Vicitoni che è meglio della T250, no? Non dire cose che non devi dire, Nathalie. La T250 è un accordatore esterno in assoluto, l'unico pezzo in assoluto che la Kenwood ha fatto, l'unico pezzo in assoluto. Ed è indescrivibile quello che fa con l'accordatore, tutto in automatico. Sì, già lo so, la T250 però, ma non è quello interno. Gli apparecchi non è migliore di questi esterni qua, mi stavo dicendo. Logicamente quello è dedicato alla T250, però per risparmiare, perché la T250 costa una cifra, mi conveniva buscarsi un Daiwa, un Electronic, un MSG, capito là? Guarda, Nathalie, l'MSG costa 250-300 euro, lo trovi. Capito? Il reggitore che costa leggermente di meno. Però c'è sul brio una T250 per 250 euro. E quindi alla fine le conviene comprare quello. E così c'ha la linea completa, capito? Perché lui c'ha tutta la linea, ne manca solo l'accordatore esterno. Ah, ecco, se si deve fare così, conviene prenderlo. Io provo di comprarlo nuovo, non conviene. Il nuovo costa una cifra, ma il vicino sarà una T250. Io la prima non lo trovo neanche perché la Kenwood non la sta facendo più, qui ce la se lo tiene. È un prezzo che costa ancora sui 300 euro. Però ce n'è uno su, io l'ho trovato a vederlo, su eBay, 250 euro, nuovo, perlomeno, fotografia è nuovo. Poi bisogna vedere il funzionamento interno com'è. Quello che ho dato io a Franco è nuovo. Perché l'ho comprato io ed è nuovo, capito? È nuovissimo, esternamente e internamente, mai stato toccato. Infatti già l'hai visto quanto è veloce, accorda tutto, da A alla Z. Quindi lui, ti conviene cercarti uno di quelli? Questo è stato un break, fallo entrare qua. E l'ha fatto entrare Luca, avanti. Buonasera a tutti, dai, Luca. Professionali si dimezzano sempre, anche quelli si dimezzano la potenza. No, sugli accessi il potenza non le dimezzano. C'è uno stazionale, non è inutile che serve per vedere l'ago che si muove qui e là, si mette a attaccare accordatori, strumenti e balle vai. I strumenti si attaccano per fare il trovo, il stazionale non ce n'è, perfetto, attaccano tutto. Sono tutte perdite, cavi, cavetti, cavettini. Io non ho niente attaccato alla mia radio. Stazionale non ce n'è, a parte il fatto che il 440 mi controlla sia la potenza che le servono più le adesso. Io faccio così, stazionale 1 e 1, capite? Mentre così mi controlla la potenza, quindi c'ho tutto su display della radio. Cosa devo fare? Attaccare strumenti, strumentini, accordatori, capito già? È meglio sempre fare la prova, vedere se tutto procede bene, poi ne sacchi tutto. E li metti lì davanti, per bellezza, cosa vuoi dire, ma se uno stazionale non è inutile che tenga l'accordatore attaccato, non serve a niente. Ma fanno queste cose che fanno attenzione perché sono illuminati e danno un tocco di flash, là. Già, sono tutti vestiti, già, ormai 40 di anni, già, illuminati, almeno tutti si sono illuminati, ma cioè, se per vedere lo strumento illuminato devo perdere potenza, allora ma vai lo strumento. Cosa me la tutti, per vestiti da una parte li tieni lì vicino alle radio, io strumenti non ne ho, a me non c'è niente di strumenti, io ho tutte le radio con gli strumenti, tutte, la Z, sia il 940, sia il 920, il 440, il PS2000, tutte le radio, anche il Sommercamp, vedi, c'è lo strumento sia del rock, metro watt, metro tutto qua. Quindi una volta che la radio è a posto, che non hai praticamente stazionarie, non conviene tenere cavetti e cavettini attaccati. Per i tivi, sì, ma senza attaccare il DL, cosa fa? fatto anche il suo, l'accordatore, perché stazionario non è occupato. Non c'è motivo di tenerlo attaccato. Io lo tengo attaccato avanti, è mai passato, no, adesso. Ma io ce l'ho attaccato per un altro motivo. Perché il salvatore lo usiamo un altro modo e allora ci vuole quello, capito? dire quell'accordatore, ma è una cosa finta praticamente. Capito là? Ciao, un tasto per disinserirlo. Sì, anche quello che c'ho io, il Brasmatch, c'ha il tasto per inserire e disinserire l'accordatore, però non c'è sempre perdita, io non lo trunga. Io gli ho attaccato tutto, non c'ho niente attaccato le radio. Io ho tutte le radio dirette. L'overrate schiaccio, mi controlla il stazionale, mi controlla addirittura il voice, quante volte sto erogando, quante ampere sto erogando, e hanno tutto le radio che c'ho io, capito? Faccio questo sommer camp che ho preso, la stessa cosa, c'è un transmitter grande grande come il 940, è su tre scale, su una scala mi indica la potenza della radio, su una scala mi indica lo strumento in trasmissione e ricezione, e su un'altra scala mi indica le stazionali. Quindi io già ne vai dello strumento, ho provato naturalmente per vedere se la taratura è a posto e basta, e poi lascio stare così. Poi vabbè, poi l'ultimo attaccato, Bose illuminato, vuole le stazionali e i vatti, capito là, e quello lì non mi interessa. Poi va bene, il 27. Che non vuoi durare tutti la battenza, intanto per quel che vale. Sì, vabbè Natali, ognuno fa quello che le piace, non è un problema, qua stiamo parlando di cosa può avere o non può avere. Strumenti meno se ne attacca il meglio è, una volta che sia a posto io non mi frega niente. Lo guardo ogni tanto, controllo, ma non trasporto più niente, poi su radio così. Su questo tipo di radio problemi non ce ne sono, capito? Vabbè. Dimmi qua, mi stavo dicendo e mi hanno telefonato. E stavo dicendo, preparati a due tasti uguali a quelle che hai fatto. E la multibanda da lì la togliamo e la mettiamo a fianco alla Gran Prix con un paolo a 2 metri. No, ma io sono già le tappe, dove la tolgo? La manco, ma non la dice. Dove la manco? Ma è quella tassa lì, non è l'aria che è attaccata al muro, non va bene, la mettiamo a fianco alla mantova, no? Sopra la casetta. Tanto quella va a fargli una specie di L attaccata alla mantova. Vabbè, disturba radiale, disturba tutto, non va bene, le antenne vanno sempre distanziate almeno 2 metri, almeno, se poi un metro e 50 non le fa niente. Si mette a fianco, con due staffe ci fanno altre due buchi, anche senza farle molto robuste, capito? Una cosa simile a quelle lì, che sono molto molto belle, e si mette un tubo e si solleva, fa superare i radiali dalla casetta, e poi puoi fare le differenze. Ah, cioè, tu dici la tua della tua la tua della tua la tua della tua la tua della tua la tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della tua della un sabato che fa bella giornata, saliamo, cosa ci vuole? Ci vuole 10 minuti, siamo quando c'è il tempo ti prepari già le staffe, si fila la lì e si mette sopra, vengo a darti una mano, 10 minuti e si fa. Gappa gappa. No, ma col tempo volevo provare queste antenne direttive, cioè vedere un po'. Possiamo fare le prove che voi, ma non così, attaccate così no. Quella è troppo, stai radiando sopra il muro, capito? Da lì la devi togliere, è troppo bassa. Non ce la fa irradiare con l'antenna, anche perché è una multibanda, quindi ho bisogno di radiazione verticale bene, irradiare devono essere liberi, altrimenti non guadagni niente, qua perdi 20 decibel, cioè da 9,60 vai a 9,40. Ciao, adesso sono con quello grande, l'antenna grande, insomma, come arrivo da voi, Natalì? Allora, una sagumba, capitolai, vabbè. Ma non ti intendi, io ho detto, e cosa sta facendo basso Roberto, c'è di segnale che c'è il radio, c'è la diretta, ma prima, con il che ti ha chiamato di me, ci lo sta lì, buongiorno. se viene allora i due poli lì quando piove stanno facendo, stanno scaricando, non va bene. Guarda, ti dico di più, tu mi stai arrivando due, Roberto mi sta arrivando tre. Di nulla, di tutto, ma che ci può tanto se quando la tende, non va bene con il polo, la moglie assoluto, anzi ti consiglio di non andare in trasmissione. Prima che il più vicino finale di Chisciaro, quello del Mubico, e poi te l'attacchi a Pittorra. No, no, sto usando la, la mazzo qua, con Midland, no. Lì è nascosta e basta, dai. Solo a ricevere. Vediamo un po' a Franco, vai, fammi un passaggio un attimo. 1, 2, 3, trova la Pittorra. Cazzo, è Franco il 7, la taglio il 6, Franco il 7, figurati. Faccio vedere che è andato in corpo con il polo, lascia le cani che è andato in corpo e ci riporto. Ma non lo tocca più, quello si toglie, si asciuga bene, si vulcanizza tutto, si fanno le misure giuste con, la, con l'ormetro mio e si mette come cristiani e poi ti faccio vedere se funziona. Io che non funziona. Io ce l'ho qua il mio. E voi con la loro lupa, quello lì c'ha zero stazionario, è vero però. Ah, se ti dico di più, l'attalino è 6 e mezzo, e Franco è 7. Cazzo un buon, se ne devo attaccare da te. Vai, se mi sono appena fatto tu mi faccio due adesso ma ne contito. Per quello che non stavo uscendo. Guarda, Claudio, Napoli. Io ho anche espresso, non ti ascolto più al di polo, ma io non ti sento proprio, capito? Se prima ti sentivo molto, perché era asciutto, adesso non ti sento proprio. Quindi non trasmettere con il di polo, perché in corso l'acqua che si è messa nei cappuccetti sta facendo dal dottore e praticamente il di polo non sta uscendo. Hai capito? Gaffa, gaffa, brutta. Proprio col dipolo non ti ascolto più. Ascolto a Tarino bene, anzi benissimo, e a Franco, e a Roberto anche. Ma guarda che l'ho vulcanizzato, non dico una balla, l'ho astratto, l'ho messo un antisolante sopra. E sicuramente l'ho messo così all'imbreccio, utilizza l'imbreccio, buh. Va bene, dai, vediamo cosa fare. Ma che vuoi entrare, avanti? Non hai capito niente. E chi è questo qua? Ma io non lo sento, non lo sento per niente, c'ho quell'M a 9. La più bella di 8 qua. Avanti Gianni. Gianni. Oh, c'era uno adesso, non hai capito niente. Ma un gavilaghiscio. E l'ho sentito anche io, Luca. Chi è? Non lo so chi è, vabbè, se ci vuole presentare ci fa la cortesia. Diversamente sta in silenzio. Gianni, ne credi? Claudio. Ma io sto risuonando con Di Polo adesso, voi mi ascolti, 1, 2, 3, 4. 9 più 10, e il tuo Di Polo non è 3 da 27, è 3 di 40 metri. Però siccome è accordato tra 27, i bracci stanno risuonando a 2,75. Ok, arrivi 9 più 10. Capo è positivo, la carriera a te. No, ve ne stai arrivando. Capito. Ma la gamma di positivo, va bene dai, si va con l'antenna, riprendi Claudio. Cappa, 9 più 10 sta arrivando, qui non è questione di posizione, è questione che quel disturbo non sta andando, capito? Cioè non sta risuonando, perché è in corso, ci sono messi i bracci in corso, capito? Facendo il computer, e così ci vedremo. Prova a vedere, prova. Però guarda, le misure sono giuste, è impossibile che sia... A te che ho perso, prima di 3, poi c'era 2,5, a 2, no 2,5, poi 2, adesso non ti ascolto per niente. Ascolta Roberto, a Franco, vabbè qua vicino a me, e a Natalia, adesso non ti ascolto più. Franco io ti sento, prima ti sentivo 8 radio 5, adesso non ti sento più, è andato in corto quello di polo, hai capito? Non c'entra niente se l'hai messo l'altro zolante non isola, capito? L'acqua passa lo stesso. Quei cappuccetti volevano o siliconati con silicone, dove avete attaccato il polo caldo, il polo caldo, il polo freddo, il polo freddo, avete diviso i bracci, voleva isolato con il silicone bianco oppure col vulcanizzante, fatto bene però, braccio per braccio, tutto bello vulcanizzato, poi steso, una volta che lo tendi, la misura la fai una volta che ti attacca, siccome potrebbe esserci una misura intermedia lì, tra l'antenna e dove l'hai attaccato, quindi può darci che i bracci vadano ancora accorciati per scendere le stazionarie, non è detto che devono essere 2,75 precisi, possono essere 2,73 anche per braccio. Adesso te ne dico un'altra, aspetta vaffa Napoli, allora adesso staccato praticamente il PL e lo sto facendo viaggiare con il polo caldo e ti ascolto Santiago un sigo di polo. E io cosa ti dice da te? È andato in corto, non c'è marcia in quel di polo, hai capito? È andato in corto il braccio, capito? O addirittura è andato in corto il cavo che discende nel baracchino, quindi non lo usare Luca, capito? Perché se tu le stacchi il PL, lo sviti e lo fai andare solo col polo caldo, sta lavorando solo col centrale, quindi il segnale arriva, perciò il centrale è buono, è andato in corto la massa, la calza, perché si è riempita l'acqua. Sì, sì, ti ascolto, Santiago sì, dai. Santiago sì, Claudio. Allora vediamo un po' Roberto, prova 1, 2, 3, prova 30, 40, 50, 70. Però ascolta. aspetta, cara, no, non mi convince, aspetta, no, è impossibile. Ah, Roberto mi arriva sempre Santiago 3. Natalio mi arriva sempre Santiago 6 e mezzo. Franco è più di 7, sta salendo Franco di segnale. Boh, è possibile, è impossibile. Ma non è impossibile, Luca, si sta riempendo l'acqua. L'acqua tra il movimento della pioggia e il movimento del dipolo. È così, non ti preoccupare, è così, vai tranquillo, va un piccolo è così, o vai tranquillo. Quel dipolo si è messo a massa la calza e praticamente tu stai ricevendo solo col centrale. Il centrale che è il braccio, praticamente quello dove c'è il lato, ma già più compreso qual è, è puntato su di me quello, e il segnale lo stai ricevendo lo stesso. Lasciala stare, non capisce niente. Avanti, ti vuole entrare. Ma non che ce l'hai, come? Non quello che stai così, stanno così sbagliati, non capisce niente quello lì. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che ma l'ho fatto io di quello, quindi io non so niente. Io non so niente, in campagna abito. Se tu sei più bravo, spiegacelo tu perché c'è un stazionale perché non sta uscendo. Invece di guardi il microfono, mi dice tutto l'altro dal guru. Ma a futtidini, non c'è problema. Non c'è problema. Vabbè, vabbè. Sicuramente è in corso, dai, non c'è problema. Non... Ah, se mi inchiri, poi lo uso, mi brucio il barattino, ho un dipolo gaggato, no, no. Si rivela, dai, si rivela il tutto, perché sicuramente è entrata acqua. Non è entrata acqua, forse umidità, già ne so. Scava, non sta a cazzo, ma uso l'antenna adesso. No, la pielle, e quello qua c'è il corpo. Aspetta, non è Luca. Dai, no, ce l'ho, c'ho tutto qua, testa, adattore, tutto, c'è tutto, c'è tutto, manca nei soldi. La parte principale. E allora vai che c'è il corpo con pielle, ti cambi il subito. Come fanno a controllare il PL se il cavo di massa è attaccato col centrale su? Ma che cazzo state dicendo stamattina? Cacca nel PL alla macchina, no, per vedere se è a massa. Aspetta, là, giusto una curiosità. Un attimino, vediamo un po'. Beh, vai a vedere il controllo della massa, ma il dittrogenio, Roberto, fammi la risposta. È andato in corpo con la massa sopra, capito? La massa sopra in corpo. Il bicchierino che c'è dove è attaccato Franco le connessioni, lì si è riempito l'acqua, sta toccando col caldo, col polo freddo. E ci capisco la ruba, no? Se è corpo, se è una pizza, si disegna, ma tu dici un attimo, si tocca. Si tocca, la massa è bloccata, non deve segnare, se è buono. Però vuol dire che è un corpo, se segna. Claudio. La discesa? Di quella alimentazione. Allora, ma si mette l'esattore, te ce l'ho tu. No, non è si mette l'esattore. Non c'è bisogno per il polo 27 si mette l'esattore. Quello ci fa per il polo larga banda. Non c'è problema. No, no, quello è normale. Ma è andato in corpo, è andato in corpo il cavo di scesa, no? Non c'è mai là, comprendi, quando una cosa è fatta lui, quando è fatta male. Di polo è fatto bene. Solo che non è stato isolato, non sono state fatte le cose arrivate. Ed è andato in corpo la massa, non è successo niente. Si asciuga, si riattacca la massa, si isola, di polo va bene. Perché qua io lo sentivo a Luca, quindi adesso non lo sento più. Claudio, aspettate un attimino, 2 secondi. Allora, ho misurato col tester, Rudava, non segna niente. Attaccata, è nuovo la discesa. Comunque, ho invertito, lo sai quanto vuole? 2,325 centimetri. No, 2,62,5 vuole. A 120 gradi, capito? Per braccio. Che cazzo, ma sai, qualcuno ti sta chiamando? Chi è vuole entrare? Avanti. No, ma non ascoltare. Chi sei, Anna? Mi chiamo Anna. Che dici? Sentiamo 3, sì, qua, dai. No, ma senti, Anna. No, negativo, non arriva qua. Ciao, Anna, buongiorno. Ma non arrivi qua. C'ho qua RM a 9. Sta piovendo a Dioppo qua a Carbonati. Nathalie, non può mai segnare il tester non può mai segnare perché la calza è attaccata sul braccio, quindi non può mai segnare il tester. l'antenna, hai capito? Però caldo, già attaccato l'antenna, dove attaccare va su per poter misurare. Thank you. tappa da me, praticamente, siccome il cavo non mi arrivava, allora cosa ho fatto? Proprio non arrivi a nulla, neanche le toccate. Ho aggiunto un altro aspetto che mi ha fatto l'attarino, come sono mai rotto, e l'ho aggiunto, non era quello. Thank you. fatto la curiosità, però vediamo, ora scappa, abbiamo colato, e prendi il plata. Sì, ma non all'interno, Luca, vicino al creatore si fa all'uscita del cavo sopra l'antenna, non si fa dentro, dentro non ha nessun significato. Il cavo si simmetrizza fuori all'esterno per far sì che faccia da attrattore di differenza. All'interno cosa lo fa fare? Sul tetto, Luca, non fa niente, il simmetrizzatore si fa al cavo che attacca sopra al dipolo, non si fa all'interno dove c'è il PL. Luca, ma scusate, ma quello dove ho attaccato il marinotto lì? No, dove c'è il cavo attaccato sopra al dipolo, tu c'è il cavetto che scende, il primo cavo, quello che non ti arrivava, il simmetrizzatore si fa prima di attaccare i cavi, il polo caldo, il polo freddo al dipolo, lì si fa il simmetrizzatore. Ma io non lo posso fare, negativo, perché il cavo non è giusto, è giusto che entra nella finestra, perciò lì non lo posso fare, la possiamo valutare allora, niente da fare. Te l'ho detto, quando fa bel tempo, no, di un bel ti fai venire a Brescia, ognuno dice la gioia. Il simmetrizzatore, proviamo a farlo, però prima di fare il simmetrizzatore, per non perdere molto cavo, facciamo prima la misurazione, ok, con l'ormetro mio però, con l'ormetro mio, va bene, facciamo prima la misurazione dei bracci. Se i bracci sono giusti, si fa la taratura, si attacca al dipolo, come dico io, però non come dicono gli altri, come dico io, ce la faccio io, poi se c'è qualcuno più bravo, ma ce lo fa. Io l'attacco come ho messo i miei, in orizzontale, bello atteso, faccio nuovamente le connessioni, isolo tutto e poi faccio la misurazione dei bracci. Se i bracci rispondono all'ormetro, va bene. Se non corrispondono i bracci all'ormetro, allora bisogna accorciare leggermente i bracci, ma di millimetri, non tagliare di centimetri, millimetri, fino a portare i bracci alla taratura giusta. No, non ne ho fretta, claro, tranquillo, non voglio mangiare pressa, una fottinuta. Mi stava dicendo Luca di fare un'altra prova, io passavo dal cavo che arrivava a Palacchino. Ma guarda, non c'è problema, lo facciamo quando sono permesso il tempo, adesso no. Esatto, tu lascialo così, ascolta e basta, tutti i dì, usa l'antenna. Quando il tempo è buono, ti ho detto, andiamo, tutti e due. Tu me lo attacchi, me lo butti giù, io lo preparo, te lo metto, te lo ributto su e tu lo attacchi come ti dico io. E vedrai che l'antenna va bene, capito? L'antenna va benissimo, perché io porto un portatile fuori lì. Lo tendiamo da una parte all'altra, nella strada. Ci ho levato un metro da terra, ok, e io lo taro. Una volta che tarato, poi lo piatti su. E ti metto bene se funziona. No, poi la facciamo così allora. Non c'è problema. Perché mi dà? Ma guarda, riprendi il movimento Franco, non c'è Franco? Non so se c'è Franco, c'era un casino nella puttana alle 10. Non so che gira anche uno a Cordembio, o sia forse l'abortante, ma fate voi girare niente. Ma comunque l'abortante qua è 9 più 30, è la stessa che io ho rilevato sempre dalla stessa zona, perciò problemi non ce ne sono. E qua era passato a Torino, gli altri no, è Franco ovviamente, gli altri non passavano. Io so che vi sentivo tutti, no, non ci sono problemi, non sentivo solo Luca e basta, ok, c'è anche Gianni, cosa faccio, il canale 10, l'ho chiamato, non mi ha risposto, voi non l'avete più rilanciato, Gianni, sarà cucato, vabbè, cosa volete dire? Vabbè, comunque il discorso di pure è quello, se c'hanno per appena di perdita, il polo non va più bene, il polo in orizzontale deve lavorare perfettamente perché altrimenti non risuona. non mi risuonava, sentivo tutti quanti, però quando io andavo in trasmissione il segnale sì, mi sentivo una mera basso. L'ho portato, ormai c'è un orizzontale, non ce n'è per nessuno, da tutte le parti, in tutta Italia io arrivo una canonata, capito? Arrivo da tutte le parti, perché deve funzionare con le sue aperture giuste, con le sue gradazioni, poi l'altarino già lo sa, non è che stiamo dicendo bagianate, capito? O cammellate. Sempre, se io lo chiudo adesso, guarda, tu sotto ma fa un culo. respira. Tu sotto lo senti un po', vero? È chiuso, lo senti sotto fuori, ecco. No, è chiuso però la come si chiama? Cosa non è, ecco, la data non è, ecco. Non si può fare niente, non lo vedo, ma chi è che non ha letto? Certo, sono una campana, non si capisce niente, ma se io non lo uso così mi dà un po' di amplificazione anche, capito? No, ma gamba, avanti Claudio. Gamba, gamba, non la sento la maglia, sono troppo guarnema e dalla pioggia. Poi c'è il tradice d'alta tensione e qua, come sempre, fanno un sacco di discariche elettrostatiche, capito? Non la sento per niente. Ieri la sentivo molto bene, vabbè, ieri non era la Lega, che era sua. Luca, lascialo così, chiuso, lascialo così. È una bellissima radio, bella, pulita, preamplificata, non ci sono problemi, capito? Va più che bene. Ok, vabbè signore, dai, io vi saluto, ma rimango in ascolto che mi metto a lavorare nelle altre bande, a vedere se c'è qualcuno con questa pioggia, vado a cacciare qualche collegamento. Ci sentiamo più tardi, statevi bene tutti, buona serata, eccetera, eccetera. Ci saluto anche Anna se mi sta ascoltando, niente. Riprendi tu Luca e fai girare. Ciao a tutti, buona serata. Ok, grazie, Afra. Buon proseguimento, se vuoi entrare siamo qua. Anna, l'hai copiato, vabbè. Cosa cambia, saluti Anna, se cosa cambio io, niente, ma se lo metto. Ciao Claudio, alle prossime, buon lavoro. Mi porta lui di via. Ah no, non so che uscire, io sono come nella corrente. Vabbè, siamo ai 55 mezzo. Cappa, avanti, Attalino. Via, cappa, cappa, c'è buon ascolto. Gava, vediamo un po', Natalino, Luca, quello non ho sentito, negativo, non ho sentito, Marco ci sei, Marco non c'è, si è fatto in cosa? Roberto! Sto facendo dei compiti qua, dai! Ok, dai, non c'è problema. Niente, no, ti ho rilanciato a 850 per metterti via Bambolina. Alle 50 sto facendo i piatti adesso. Ma tu Bambolina la sentivi, fra? No, negativo, Luca. No, raga, ma come cazzo di chiesa non la intendo? Luca, ma che zona sta modulando, Bambolina? A cosa? A rimanetta, dai, o meno. Ma arriva, meglio di ieri pure. Io la porto benissimo, va più che bene. Ma dai, posso rassegnare, ma dai, che è buono, è forte. Io non ho capito. Ho detto che non ha una segnale, c'ha un segnale di due. Ma dai, è forte, capito? Cappa, rispetto a ieri notte la sento molto meglio. Magari mi devo la segnale e poi la radio. Oggi non la segnale ma c'è la radio. Cappa, la Franco che sento male oggi. Ah, Franco. Sì, rispetto al normale lo sento più basso. Non so come già dite, roba. Se sempre più si dobbiamo fare all'aria o ci sia il sole, sono sempre uguale. Franco lo sento più debole. Non so se sta leggendo un po' di buono, Franco. Ah, per quello era allora. Oh, stavo dicendo, ma Gianni che fine ha fatto? Ah, buono, non so, Gianni, ci sei. Si sei addormentato, dai, gioco. Aspetta, ha fatto un passaggio nel 10, se c'è qualcuno. Ehi! Detto Claudio, passiamo di nuovo sul 10, ha detto Claudio, dai, andiamo tutti lì. Cava! Luca, un altro questo. Ciao, Tombe. Ciao, Radio Vis 1 con le videochiamate, non l'hai visto? Il videofonino? No, negativo. Ma non so quel videofonino. Che me l'hanno fatto vedere due avvicinate, grazie male sì, a quei prezzi. Ti puoi scaricare da internet, oppure te li fanno andare, li paghi e te li fanno andare. Ma questo era il saldo, poi li rimuda e li muove la cosa e di traverso. Allora, sono un genio, vediamo se passa, mi è sempre tutto più vecchio. aiuta le moglie di fare bene, voglio quasi 90 anni. Ok, bene. Dopo, magari ci mettiamo con un colore diverso. No, a parte di dove, qua stamattina mi sono svegliato, lui deve essere che ho dormito male perché la bambina stava male. Stavo dormendo quando mi sono svegliato, non riuscivo a alzare un braccio. Lui gli ha giudicato, già la biglia buona. Non mi ha detto solo il mio, io mi è rimasto questa di salvo tutta la notte roba sopra. E mi faceva male tutto il braccio, tutto dietro, dietro la schiena, e dici un po'. Ma la Luisa! Lui ti sta chiamando Luca. Non sei, chi è Luca? Luca, soldatino, ma in Colombia, come vuoi chiamare? Di che mondo? Beh, Luca. Luca è trombone. Luca! Mi senti? Ah, oh, ti sei trovato, cosa sei successo? Ah, a quello, ma fa massa mi senti? Mi sento che la butta con l'antenna, ma è lui. Cosa? Aspetta un attimo, Maria, cosa vuole lui? Se ti sei abbassato di segnale, cosa sei successo? Di segnale, un bel. Prima mi arrivavi a 9. Ma vero? Uva, eia! Non so. Cosa hai duccato? Ma se l'avevi fatto in busciacca alle mani. Cosa hai duccato? Dammi la giù, su vado i segnali. Ma vero? Quello va così. Adesso no, vedi, cosa stavi toccando? Aspetta, guarda, vuoi essere va meglio? No, adesso sei di nuovo basso. 1, 2, 3, prova. Sopra il basso, Basso. Ciao, 1, 2, 3, stella. Adesso sei alto. Mazza, è ma... Cappa. C'è più la fredda del gioco. Oh, ya. Ma tu non ti ho... Le buone che stiamo giù, così, va. Graziato. Io vorrei correggerlo, Tutto mi scrivi voi, ma aspetta, non c'è, è troppo alto. Tu non hai questa, ma è una bruttista. Sgraziati. Ma nella bocca pizza ti servono buono. A tu. Io sono buono, ma lui, il film testa non mi lo buono, ma che se lo mise subito. A tu, no. Chi era? Mi vuole Luca, lo senti. Avanti, lui, che noi stiamo facendo ping pong, scusa, ci è, avanti. Sì, io ti ascolto, sì, segnale 8, radio però, non te la do 5, se no 4, non è bella la radio, è molto bassa. Ma tu cosa abbiamo fatto a chi? Ma cosa fa? Gli hanno passato il filo della commissione dell'alimentazione per l'inizio portante. Per collegarmi il parlamento non sta capitando tutto. Allora, no, non ti sto seguendo. Ma l'hanno tolto alla radio o l'hanno tolto al microfono? Alla radio. Ma sì, ma che video non c'era di toglierlo? Io l'apparecchio mio li connetto qualsiasi tipo di microfono che voglio e non mi cambia, devo toccare niente alla radio. Al metodo spinoso è tappoli, utilizzo tre poli e lo utilizzo per quanti microfoni voglio. Il microfono è amplificato, come può essere il T5, il T4, più due, sono già amplificati di per sé. L'1160, anche se va all'interno a un circuitino, però è nata apposta per lavorare con questo tipo di radio. Ma con questo tipo di radio quando? Quando è modificato per la M, perché se no il modulatore come funziona? Allora provalo in banda, il male laterale dovrebbe funzionare meglio perché dovrebbe darti qualcosa in più. E l'apparecchio 140 lui quando tu lo compri, che non è stato mai toccato, non riusciva a farlo, c'è una M, vuol venire dal grabo. No, no, no, sì, però stavamo dicendo un fatto che poi lui l'ha avuto da fine, anche se è originale, deve spingere un po', se tu vuoi sentire la differenza, ma non metti in sala dal 60 all'inizio con la posta, deve sentire la differenza, ma più non può sentire. Sì, quello sì, la differenza tra il 60 e il 43 si deve sentire normale, però tu la cosiddetta te la puoi levare subito, misura sui pinini, ti sono gli 8 volt e vedi un po', se no non penso che comunque abbiamo fatto questa stronzata che ne è tutto, perché è un lavoraccio, perché per arrivare lì devi togliere praticamente i coperti, arrivare sotto la mascherina, mi sembra una cosa troppo lunga da fare, quando si fa il volante microfono di sotto si cade lo spinotto e si prendono solo in considerazione i fili che ti interessano. Nessuno va lì mai a macinare dentro la radio, anche perché è una cosa che solo persone che lo sanno fare lo possono fare, non è che vai lì così e tagli quello che devi, non tagli quello che devi togliere, sono cose che vanno fatte in un criterio, però non lo fa nessuno, perché ripeto, è come se tu ti stessi legato alla macchina per cambiare la marmitta, cioè un discorso che non sta né cielo né terra. Sicuramente ha lo sopravvento che era il mio primo 140 che ho avuto non tanto tempo fa, che me l'hanno mandato su Vergine e praticamente aveva il Mac in completamente chiuso e l'LC proprio a zero per quanto riguarda la M. Per quanto riguarda le bande laterali, indirettamente, cioè però in alcune bande andava bene, in 27 era un cesso proprio di quelle allucinanti. Allora è così, io Vergine non è stato mai toccato, non è un discorso che abbiamo fatto, non abbiamo attaccato niente, è solo normale, è normale, il suo funzionamento è quello. Luca, chi c'era a questo canale oltre a te? Roberto c'era, ma è Maria Luisa, ma poi c'era Luca, radio è... Sono spostato, c'era Gianni, Franco sta studiando, Natalia è sparito, non è. Sì, sì, tanto ma stavo pensando di questo problema che c'ha Luca, non sarà fatto espressamente dalla casa costruttrice per evitarlo di usarlo nella 27? No, la casa costruttrice te lo segna addirittura a salti di frequenza. Quando la parrucca esce dalla casa costruttrice, praticamente i salti di frequenza funzionano solo nelle mani riservate alle animazioni, 40 metri, 80 metri, anche neanche 40 metri, vabbè. La modifica comunque salta, sulla 27 neanche lavora, è una modifica che si fa all'interno, si praticamente si prende due diodi, allora lo fai diventare una sintonia continua, ma quella è una richiesta che ti fa, la metto che l'acquisti, se non ti interessa averlo così, loro te lo mandano normale, con i salti di frequenza. KK, quindi è fatto con scopo, magari ci hanno chiuso questa LC proprio per evitare di farselo utilizzare fuori bande autorizzate. Ma non per evitare, no, allora, vabbè, non per evitare, niente, che allora non gliela pagherebbe niente, perché la vendita non è illegale, l'utilizzo è una cosa illegale, cioè detenere non è una cosa illegale, io posso avere tutto quello che voglio, però non lo posso utilizzare. Il discorso è questo, che la parrucca nasce per lavorare su quella frequenza e loro lo sparano, lo provano su quelle frequenze, dopo da lì in poi non è pagato niente a loro, non è compito loro, capito? KK. Ti prendi Luca? Sì, a KK. Per carità. Un attimino. Aspetta, Dai, ma non le prendete? Ma che da internet, che un po' la ce l'è fatti. Una fila ci deve scaricare anche da internet. È gratis però, non è quella pagata. Poi delle mandano anche delle vie. Ciao! Aspetta un attimo, mi dici il nome, Gianni? Il nome di chi? Il nome del... non mi ricordo, aspetta. Divina, la Rossea, la Giovane Giacomo, Profondo Rosso, Gallina, no? Mi sa, dove sta qua? Per essere in quelle condizioni, però un radio ormai basta, ragazzi, non basta. Niente, ha tirato fuori, ma però è la radio molto bassa. Quello da me è meglio se puoi rimettere in sesto con l'apparecchio, non è che sia una cosa impossibile, no? Gappa gappa, andava. Andava bene, ripreso Roberto. Gianni. Sono morirotta e se vuoi darmi tutto. Perché lui si deve gancheggiare? Oh, però ha portato qua con le comandi. No, io non si portava la qua, non si può mai. Ah, prego. Ah, no. Beh, io come c'è da vaccone. E mi faccia la radio al vaccone. Antonio. Stavo chiamando. Chi è? Avanti. Avanti, chi è che mi chiama? Non si. Ehi. Dopo qua si va. Praticamente infatti un avvolgimento, sono tutti molto bloccati, infatti fa un avvolgimento di cavolo 2,5, dopo te lo mesi di golfetta, fino a quando riesci a trovare la resistenza omica giusta. Allora, io sono venuto sulla piastrina che si usava una volta. So quanti giri devo fare attorno al tubo, capito? In base alla sensibilità che va a si presentò. Infatti facevo un capito di secondo di carina, beh, di quella della piastrina che si usava una volta. Si è stato toccato. Ma quella era doppia? Sì, la prima volta che si usava una volta, certo, che si metteva a chiudere in mezzo. Ah, ma ricordo, ma dico, quella era doppia, che si usava doppia anche adesso. Perché quando la chiamavano in fretta e molte volte quando mettevano il chiodino pizzicavano il cavo, poi le case allora erano tutte quante umide, quindi iniziava a scintillare, adesso a manca. No, ma io ho capito una cosa, Lu, cioè la piattina, cioè se non ti serve che abbia due conduttori o un conduttore singolo? Due nel tempo, perché uno va per la recensione, uno per la trasmissione. Ah, quindi devi avvolgere due, tutti e due assieme. No, la piattina devi considerare allora che era all'incirca da 1,5, quella che facevano più grossa era da 1,5, quindi fatti il conto che hai sul cavo da 2,5, quanti metri ce la volevano prima? 18 metri, 18 centimetri. Se ce l'avevano 18 metri più, adesso ce l'avevano intorno ai 14 metri, 14-13 metri. Sono due luoghi moltiplicare per due, io penso che ce ne vogliano, e sì, siamo lì sempre. Il discorso non è la lunghezza del cavo, è il numero delle strutture che gli fai in base a dove lo stai avvolgendo. Quindi praticamente tu dovresti avvolgersene, che so, in un tubo da 20, mi avvolgi un metro e misuri, e poi ti fai la moltiplicazione, perché c'è una cosa che non sai fare così. Allora, dimmi. In un tubo da 16 centimetri di diametro, cioè che poi sono un centimetro, non so, sono 16 mm, non 16 centimetri, tu stai parlando di centimetri o di millimetri? Di centimetri, capito, 8 centimetri di diametro il tubo, dove va avvolto, dove va avvolto, sono 13 di filo, di piattina, perché sono 13 che devo fare per due, perché prima la piattina, adesso c'è più singolo, e la maggiore cosa, però forse la piattina era un centimetro, hai capito? E ma tu scusa, avvolgilo con due fili da un centimetro, il cavo che fai da un centimetro lo trovi. Esatto, però devo fare la distanza di 2 centimetri che faceva la piattina. Sì, devi considerare tutto sì, la distanza delle file, perché adesso quando tu ne avvolgi due separati, le file si allargano, quando prima ne avvolgivi questi due assieme, le file erano più strette e quindi variava l'impedenza. Al limite tu puoi avvolgere le nostre 6 metri, tu pigli il petto, lo metti in scalom e lo misuri. Se poi lo vuole riavvolto o vuole svolto un po', lo svolgi o lo riavvolgi un attimo. Vabbè, senza aspetto, no, di quella piattina non se ne trova più, è uscita fuori l'arma dell'81. Quando te l'ho vista? Ultimamente mi ha visto una matassa nuova, non mi ricordo dove. Era buttata in qualche officina e l'ho vista una matassa nuova, mi ha detto, ma ancora un figlio, se lo si era un pezzo. Ma io l'ho vista 40. ma se usi invece piattina, quella tipo quella che si usa per fare l'impianto radio in macchina, quella è piattina lo stesso. Ma quella piattina che intendono loro era la vecchia piattina, quella larga, non quella dell'impianto di tipo, era quella larga che si usava solo per fare l'impianto d'antenna, cioè una piattina larga dove scendeva il segnale voce e il segnale U, uno in un capo e uno nell'altro, poi si metteva il miscelatore, poi la piattina aveva una recupera di più. Quella che era praticamente di mano rossa all'interno, poi era larga all'incirca un disco a noise e c'erano due cavi, uno sul lato e l'altro, però mi sembra di fare le calacche, prima si usava col cavo d'antenna, non si usava il cavo coassiale. Luca, questi lavori con l'operizzatura che io devo attaccare? Se va bene, però la trasparente ed era di svera, esatto, trasparente però più larga, allora nel senso dove tu per esempio metti il chiodo, questa qui invece di essere trasparente era molto più larga, era proprio trasparente trasparente, si utilizzava quando si facevano le parate delle antenne, si chiamava all'interno dei televisori quando avevano le antennine con quell'antenna a fronda, la classica piattina di antenna. Anche più quella là. È uscita fuori, diciamo, 10, gli ultimi televisori che sono nati col gruppo Nintendo risalevano, mi sembra, 20 anni fa. Quindi poi l'abbiamo veduta ancora per un po' per quelli che avevano i vecchi televisori, perché poi i televisori, invece da fare il moquettone rotondo, avevano le spinette, te lo ricordi, e c'era segnale V, segnale U, ma al tetto c'era l'antenna e poi la miscelava. Perché allora con i miei di prendere quella lì. Perché tu dicevo, io prendo la limite, una piattina larga, di provare un po'. Poi te la puoi rimettere, tu la voci, la misuri, intanto una volta che la misuri col set, il valore te lo dà, la resistenza te la segna. Quindi per me a quel punto non dovresti averne. Ma te la senti? Penso che ti sia ancora, ma anche se la larga un centimetro, tu inizi a fare per esempio 10 spine, la misuri, per esempio misuri 26 ohm, allora continui a lavorare, le fai 3-4 misure 30, quindi mi manda poi ti fare un calcolo, no? Se mi fa fare un calcolo, perché le misure devono essere quelle, capito? Per fare la campagna, per forza, poi adesso ci sono anche altre cose, perché se tu vuole solo dell'amendino, tutto ghiacciato, dei radiali, per i radiali sono i primi rami, però lo vedi per perché se lo faccio rifollare poi ti incasini con le spine, invece passagli una piattina, la avvolgi e ti misura la resistenza, man mano che avvolgi, non so, fare per esempio 10 spine e misuri, intanto la misura è la reale, il tester non mette, lo metti in scala 1, sarà più bassa, per esempio 10 ohm e misuri, se non ti misurate poi in scala 100, poi magari è superato già i 10, quindi sul 10 non ti misura, e provi. Sì, l'unica cosa è così, se prendi già. Comunque Luca, ci aspettiamo un po' mai, ma da sterare che da scorrio le troviamo, lo mettiamo in sesto. Sì, ma quindi devo prendere. E se non funziona lui? Ah, funziona. No, ma da sterare no. Anto, comunque, ho chiesto, una persona mi ha detto che si può una volta che poi perde si disallinea poco per un problema di quarto, per un problema di qualsiasi altro motivo, e tu cerchi di riaccordarlo, tecnicamente tu mi manda la serale e me li metti giusto in frequenza, ci sei, tu quando te ne fai un M mai sei spostato 3 km nel tela M. Ma cambiano le cose mobili non si può fare. Sì, andiamo le trove, che te ne dà? Io ne ho visto tanti, in tanti anni ne ho visto tanti che hanno iniziato col tempo ad avere quel problema lì, niente, l'allineato da una parte è stato parlato, però fin fine non riuscivi a allineare prima me ne è me in banda laterale, quindi a quel punto conviene non toccarlo perché sennò poi con il rischio che non lo utilizzi né da una parte né dall'altra, però se lui ci deve provare taglialo. Funziona così perché sennò io stesso ce l'avrei fatto, però poi con un rischio che non funziona da una parte e dall'altra, oppure ti devi fare tre quarti d'ora centrandoti da una parte e dall'altra, perché la volta che tu fai le bobine è quella la questione, poi con le bobine sono la fabbrica le toccherai alla perfezione, perché la fabbrica c'ha i parametri con le forme d'onda che deve darti praticamente su ogni campo la bobina, tu lo puoi trarre sì con frequentimetro, con misurato di stampo, con il dato di spettro, però loro hanno lo schema e ti dicono bobina L2, punta col puntale lì deve darti questo tipo di forma d'onda, allora lo tarano, fanno vedere una forma d'onda che è uguale a quella dello schema, lui è tarata, e gli altri cosa fanno? L'uso come riserva, come la tua, cioè quando mi serve come riserva posso usarlo, so che avevo fatto che va in più canali, che però non funzionano quella maniera che la regola non si sia mille luci. Vabbè, perfetto, tante cose si possono sempre fare già, però gli allineamenti, è come un apparecchio 1HF. Secondo che allineamenti devi fare, se per esempio con il PLL o se sei applicato di frequenza nel tempo, per via di tanti problemi, solo la casa con il tuo ufficio te lo può allineare. Sempre se tu non la linea, perché uno è la fabbrica, uno è quando lo spedisce a un certo collegato, per esempio a Chievo, degli AESU, è un conto, uno è quando esce dalla fabbrica, perché quando esce dalla fabbrica lì ci sono dei macchinari, dei macchinari della temperatura che un certo assistenza non ha. Perché la maggior parte delle volte la carico cosa fa? Si brucia le finali, si brucia questo, si brucia l'altro, però per fare operazioni di questo tipo, che poi l'altro la calza non è mai centrato al midollo, ci vogliono strumentazioni che sono praticamente la casa costruttrice ha, e poi ce li ha per catena di montaggio, non ce l'ha un tecnico che si occupa di fare le operature, è a catena di montaggio, lì fanno le operature, fanno il collaudo, il tecnico lo firma, boh, l'apparecchio funziona, e dopo lì parte l'altro. Ma come mai succedono queste cose? Perché vengono sottratti oppure perché come era del tempo se ne vanno da soli fuori frequenza? Se ne vanno da soli già fuori frequenza, se ne vanno da soli con l'ora del tempo a fine di non utilizzare gli apparecchi, anche i quarti, invece è un quarto da 27 a 0,75, con l'ora del tempo può continuare a funzionare bene, poi se non utilizzi può risuonare 2-3 chilometri in giù. Quindi cosa succede? Un chilometro questo, un chilometro l'altro, già ti sta sfasando qualche cosa, capito? Ne magari lo voti meno, il mando laterale lo voti di più, specialmente tu se parli con qualcuno che ha una sintonia continua e quindi riesce ad ascoltarti ancora peggio degli altri. Ok, ho capito. Come i due trimmer che sono frutto di inizio apparecchio, può imparare solo praticamente quello che si dice il fine corso, quello che tu usi per spostarti. Antonio, chi è? Sì, chi sei? Ciao Anna. Morina, ciao. Chi è? Non sento. Mambolina. Mambolina. Anna. Sì, io sono male. Come sei Anna che sei bassa bassa? A casa. A casa? Ma a casa tua? Già, dimmi cosa hai detto, salutami perché io non riesco a capirla. Ma non è più antenna. Mi ha detto che c'è di fuori. Ah, ho capito. Capa, Anna, abbiamo ascoltato non per tanto tempo. E chi mi sia? Chi sia? Cosa hai detto già? Che si vedono la stasera. Capa, ma chi sa, non è più antenna. Ciao, Gianni. Meglio così, fatevi sentire. Sposati vi siete? No, negati, due comandi. Un attimo, venite no? No, negativo. Penso che si sposano fra poco. Che paura. Meglio così. Non è vero tutto, scherzaccio. Ah, stavi scherzando tu. Poi no, io la sento che parla ma non riesco a capirla molte volte. Ma io fai corretti su, fai. Oh, ma non dica. Che tu mi senti? Sì. E che dico? Oh, sono un vecchio di mattina. Cosa, mamma, come si è errato? Aspetta, Luca. Ho dovuto abbassare il microfono che ti sono morire. Lo penso, non ti ascolto, ascolti con tanti anni che sei vicino, ma io del radio non ti sento, Solo io l'ascolto, bambolina. Che bello. Vai. Era ora, tu che ti invita, tu Luca. Avanti, Luca. Ma tu, dimmi, Luca. Stavo a fare il coso della DVC, quindi della DVC. E anni, Piatina, non so lei la per impianto per alto parlante tra i file. E poi c'è Piatina, con la ripresa per sparire. Sì, quella. La messa mela ormai non la porta più nessuno, perché non la usano più. Usano quella trasparente che è un tantino con la treccia più rinforzata. Invece di avere, quando tu lo spelli, invece di avere lame a fili, no, ha tutta una treccia all'interno, capito? Quindi stanno portando il fili con la trasparente più che altro. Ma allora mi consigli quella trasparente, ma un attimino. Io sto facendo un correggitato da preparare, devo andare a lavorare. Ciao Bambolina, ciao Luca, ciao i due Luca, ciao Franco Antonio, buona serata, dai, noi ci sentiamo dalla macchina magari. Sì, a soluzioni, anch'io rimango all'ascolto, dai. Cazzo, io ammazzo invece di urlare, non puoi fare che faccio la mano. Grazie. Oh, Gianni. Dicono. Che ne dici a sempre il 570, la cosa era? No, ce l'ho ancora, l'ho detto ieri che ce l'ho. Ah, ce l'ha, ma non sta usando quello adesso. Ma lo so, non sei già, perché vuole bambù? Così sì, però aspetta. Ho capito, mi sta facendo il rientro del resto, quindi l'ho dovuto abbassare. Ebbene, normale. Va bene, ciao ciao, buon lavoro, ci sentiamo al limite dalla macchina se riprendi. Cappa, vai Luca, ma in come uno. Cappa, ciao ciao. Buon lavoro, ci sentiamo dalla macchina lì, però. Ciao, avanti Luca. Grazie, grazie, ciao. Ehi. Ma non so se quella si va bene, Luca. Quella non tanto grossa, però quella per la tua parlante, no? Quella lì va bene, capito? Io devo fare solo più giri, se si tratta di un giri. Io devo fare solo più giri, se ne è abbastanza, capito? Io dico di andare al massimo, se la prima va bene. lì, allora, se non è grossa è la 075. Cosa te la do, Luca? Non so. Quando vuoi, io me la posso mettere in macchina e se ce la faccio andando, ce la do andando. Se no, ritornando, sono per sua frequenza. No, sentito in radio, insomma è basta. Proprio radio non hai, segnale c'è, ma la radio niente, niente da fare, non puoi chiamare la parola appena. Ti innesca, ma parte a te lo sento bene. Infatti non lo so come dice. Cosa? Non so come dice. Non sai cosa sia successo? E invece c'è anche la mia macchina, Anna, che è meglio non dir solo. Ehi, già non lo piace. Non ha senso, sento che parla ma non la capisco. Figurati, guarda, io stamattina la sentivo bene. Segnale, va bene, non è nato, è basta il segnale, ma la radio va bene, 4. Qua, ma intendo. Ma in che zona è? Rossi, arriva a destra, però me lo vedo. Mi è Rossi? Cappa, arriva a destra. Vabbè, non che c'è neanche tanto lontana comunque da qua, però non devo sentire là fuori, no? E tu Luca non la metti a bambolina? Guarda, io vino, forse ho allora neanche quello. Se gli ti piace tu così me, ma tu guardi a Rai, non si dimentica va, tu, vabbè tu ti arrivi bene qua, ma insomma, a me se non muore ma non ho antenna. Noi ne abbiamo tante, anche l'antenna non ne abbiamo, lui perché siamo in fase di sperimentazione, ma su motore ci faremo sentire, sai? Tu, te lo sai, praticamente io ho bidoni e ho l'antenna, hai visto? Al contrario di voi, lava. Vabbè, ma tu, lui, abiti lui, non mica ti devi trasferire, io fino all'altro giorno ce l'avevo l'antenna, sulla tutta perché non devo andare. Quindi di conseguenza dammi il tempo di trattarmi l'antenna, poi ne sarei anche stanco di sentirmi. Sposati, chi sei? Cos'è detto, Marmori? Ti sei sposato? Tu non sei. Poi cammini di Adala. Sì, sentivo. Cos'hai detto, Anna? Ti sei sposato? Mi sono sposato un anno fa, c'è anche una bambina di 2 anni, quasi. Non la capisco, ogni tanto la sento, ogni tanto no, il problema è alto. Contenta. Altro che contenta. Cappa, non so più ho visto, ma sta lavorando Cristian. Sì, sì. Cappa, meglio così, meglio così. Ma non so più ho visto, tu ogni tanto mi volevo poi, non stare più la circolazione. Ma sei tu che sei sparito anche, non noi. No, ho capito, ho detto, anche tu sei sparito. Con noi. Vabbè, prima ti fai lo stesso perché andavi lì, dopo lì non c'era più niente, quindi se ti andata non ti ho visto più. Infatti. Tu non sei io, sei tu. Anna, ha fatto vedere la croce che è sparito. Ah, così è. Ah no, lei ha fatto vedere, lei prendi, è diverso. Boh, ma tu la conosci Luca, Anna? No, non la conosco, perché? No, stavo chiedendo. No, negativo, non so come curare. Ah, di persona non la conosce. Negativo, non mi interessa conoscerla. Peso 130 kg. Cosa Anna? Che peso 130 kg. Ah, perché tu hai 130 kg, va bene. Già la conosco ancora. Ah, la conosci? Ma va bene, mi sembra solo che di 130 kg. Fino all'ultima volta che l'ho vista gli avrei dato al massimo 54 kg. Guarda. Io o meno la conoscerò, 15 anni, può essere Anna. Sì. Beh, ho 15 anni, dai. Cappa, cappa. Cappa, Roger. Roberto, tu la senti, Anna? Roberto, non senti neanche a me. Roberto. Roberto. Comunque, Antonio, hai dato 10 kg in più, Guarda, Anna. Non ti sento, non sei tu. Che non peso 54. Ah, non peso 54, ma t'ho preso. Mi ha dato 10 kg in più, Antonio. Ah, tu sentitela. Ho capito, mi ha dato cosa in più? No, dato, tu gli hai dato, tu gli hai detto prima, che l'hai vista l'ultima volta che... Così, a occhio e croce pesava magari 54 kg, ma ne pesa, cioè, ne pesa 10 in meno, tu ne hai 10 in più. Scusami, Anna, ma io mi faccio un tuo messaggio, non posso quantificare, io l'ho fatto la cifra X. Vabbè, stagionato, va. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Ti piace? Ti piace? Ti piacerebbe prenderlo in mano? A chi? A pensarla, no? Buonasera. No, no, no, per carità, no, Anna, tu sei una cosa con un mio amico, qui anche lì amica mia, no. Ho detto, sono un metro del braccio, quindi ho due frecce, io non è che mi posso regolarmi sul peso. Ho detto 54 così. Bravo, difendimi anche io, non sento. Leggero, no, perché abbiamo detto che ti piacerebbe prendere il braccio, no? Per carità, una l'amicizia, una un'altra cosa. Certo, vabbè, poi Cristia. Non ho capito, poi? E poi figurati Cristia. Ma no, guarda, se io mi faccio fatica, non riesco a capire quello che dici, ma come te lo volevo inventare? Poi ha detto figurati Cristia. Figurati Cristia, chi sta pensando di tutto, lo so. Ciao, è un bodyguard. Già lo so. No, ma ci conosciamo tanto tempo con Cristia, non è che... Ma io a Cristian lo conosco di vista, so chi è, però alla Anna la conosco 15 anni più o meno. No, io a Cristian lo conosco prima, forse di già aver conosciuto Anna. Sì, sicuramente sì. Sì, guarda, Cristian lo conosco tanti anni, sono abitato qua al monte, all'età mia, perciò non abbiamo mai giocato assieme. Negativo, non ho mai giocato, però all'età mia è andato qua al monte, così mi ha detto ieri. Io l'ho visto un paio di volte al monte, ma tanti anni fa, Scatta di positivo. Come mai Anna ancora non vi siete sposati? Già ce lo facciamo, figlia. Vabbè, intanto ce n'è tempo, non ti preoccupare. Non è che vi fate una fretta, ma siccome... Ormai siete fidanzati tanti anni, dopo tanti anni uno si sposa. Penso anch'io lo sapevo. Cosa ha detto lui? Ma che mi dico? Non ho capito, c'è importante. Ciao. Tanto per dire. tutti i semafori. Cazzo. Attenzione, hanno buttato un semaforo lì, c'è una chiesa, una macchina. Ah sì, ma però così, avevamo schiamato col semaforo. No, no, l'hanno piantato di nuovo, una macchina. Sì, vabbè, non troviamo, vabbè, vabbè. Beh, cazzo. Ah no. Riprende Roberto, quadrato. Ma no, mi sono aspettato 5 minuti per il telefono, non ho sentito niente, non so perché state ridendo, dimmi. Abbiamo chiamato più volte, abbiamo già dedotto. No, no, sono andato a rispondere al telefono, cosa è successo nel frattempo? No, c'è la musica, non l'ho sentita. No, no, no, ero un altro posto. Clara, ero Capitoni. Una parte in due, tu. Vabbè, pace, bene, lì dietro proprio quello. Ma Claudio, non si è sentito? Sì, Claudio, sono quello delle altre frequenze. Ah! Ma sicuramente che sta ascoltando. Cava. Se ascolti, Claudio, un saluto anche per te. Torre di controllo. Ui, spacchetti e cucuri. Luca! Luca non... sparito, brava. È rimasto tu? Io tu, Antonio, c'è Anna Bambolina, però non ascolto mai, basta. Importante, Dorra. No, con la bambolina, volevo chiedere completamente. Allora, il problema è che lei non ti ascolta a te, l'ha detto prima che non ti ascolta, ma morì. Ma mi senti? Cosa? Mi senti? Tu lo senti? La senti, ma no, bambolina. Sì, che la sento, bambolina, già la... No, mi chiedevo se ti ricordavo di Ponte Pilato. Hai capito, Anna? No, no, non lo sento. Se ti ricordi di Ponte o Pilato? Sì, come nominativo sì, ma di persona no, no. Ah, di nominativo sì, ma no. Perché sono passati diversi anni. No, di persona non si... Cioè, io la conosco di vista, però lei a me non mi conosce. Va bene, salutami comunque, arrivederci. Salutoni, arrivederci, mamma mia. Cambia lì, Luca. Oh, Luca, comunque, vi saluto anche io, sto studente. Ciao, ciao, ma voi ci sentiamo. Mi cambia saluti o no? In avanti mi devi dare su, io lui. Come ti devo ricare la radio? Ciao, saluta anche Antonio, la fattorista. Ciao, passo, ti saluta la bambolina. Ciao, Anna, la stessa le malattie, ma c'è la Cristian. Il contrario, ok, va bene, mi cambia tutto, ciao anche. Ciao, ciao. Adesso la copiata bellissimo. Salutoni allora, forse c'è una nuvola sopra di te, ciao. Ma il problema è che tu la senti, ma no, ma lei a non si sente. Vabbè, cosa vuoi fare? Se esce male a lei non può sentire bene, no? Io già arrivo lì, non ti preoccupare. Se arrivo a sentire tranquillamente, dunque la passo. Le sue condizioni non sono buone, pazienza, cosa vuoi fare? Sto usando una lampadina come antenna. Ehi, che già non sta la lampadina, dai. Non ti preoccupare, c'è un dipolino, magari è in un'altra direzione, questo lì. No, io volevo dire il dipolo, ho sbagliato. Ma sapete che ci sono in mezzo, cappa, mangia tu. Anche nella serie elettrica ci sono i fili. Cappa, andare. No, non sono i fili, negativo. Sono due da una alimentazione in basso, tutto il resto è acciaio, qualcosa di simile. Vabbè, avanti Antonio Riserva, come vai tu? Tanto ti spari di scappa. Roberto. Tutti fuggiti sono. Che sono a quel punto? Vediamo un po'. Ma sono lui infatti però, perché Gio Maria, dagli altri, da Claudio, sono sempre vicino a Claudio, cioè di fronte a Claudio, passo io da Claudio, non sono più passi. Ehi, lasciamo perdere, va, io sono di fianco a te e Claudio ti lo dico, dunque passa sempre prima io di te, quando vuoi. No, adesso lo faccio io, la scommessa. Ti ho detto che te lo di fianco, tu ci resti lì a me. Vero dollaro, diglielo. Se riesci a passare con dollaro, ti guardi se non ti passa con Claudio. Giulio, mi passa proprio bene, mi schiaccia. Chiedelo lui, più di quanto c'entra a te, mi chiedo tutti e due, ma lui lo sente di più. Allora non mi schiaccia, ma lo senti perché, però non mi schiaccia, è diverso. È diverso, se passo passo, cos'è diverso? Per qua lo metto, tu c'hai l'ecco un po' maletta adesso, se lo metto ecco, questo non ti capisce Giulio. Non ce l'hai maletta qua, se sono i giocatori e basta, non si può regolare qua l'ecco. E io sono con un attimino qua, sto uscendo con un attimino della macchina. Brecchia permesso? Avanti, anche senza permesso, sei comodi pure. Ma signora mi ha attivato il telefono, su. Va bene, con che problema? No, scusate, risposto, mi è arrivata la telefonata, no, stavo sentendo adesso, ma no, mi hai sentito, è a Giulio che mi ascolta, ciao Giulio. Ciao, vabbè, sì che ti ascolta, come no? Anche se sto uscendo con un mio, che sono su in mandata, che sto sistemando. Chiama Gio Maria, ma sicuramente è in campagna, perché non sono neanche se metti me l'elevato quasi, avanti non ci scommettere, grazie della pernacchia, avanti. Allora signora Elvira, buon ben arrivata a Sassari, allora come va, come va, come ci va? Se mi risponde, se non ti passo. l'abbia scoperta. No, oh, ci ha detto il padre, no, l'abbiamo scoperta. Io la verità non l'ho riconosciuta. E infatti, dico, l'ha scoperta il padre, dunque non si fa più vedere, sentire, no? Antonio. Ma qua, in questo 10 minuti fa, sparito. Questa con la figlia sicuramente. Dai, cazzo, vabbè, sono dovuto uscire da casa. Sì, a fare una commissione, quindi. No, ma ne sono quattro. Aspetto. Tu che sei rimasto? Mi ha dato uno che la vai. C'è Tino, poi c'è Gianni, che sta nel laboratorio, poi c'è Manolo, Giulio, c'è Maria, c'è, c'è un cagionero. Ma non lo sa, già si sa, così è. Ma no, sono se usa esso. Ma no, ci segui? Non lo vedi tu, vai, riprendi tu Luca. Ma che è questo porco? Cosa sei, Gianni? Oh, già, scusa un attimino, devo vedere. Sì, c'è una bella modulazione. Io un po', quante bande c'ha quell'apparato? Sì. 240 canali quindi, 64 o 24, così? È più di alto. Ma ne non si modificare o è nato così? No, no, è nato così, poi c'è anche il CV doppio, due bande laterali e FM. Gappa, gappa, gli strumenti c'hai il coso, no? Il rosmetro, la calibrazione, eccetera, con il rosmetro, quello lo c'hai, lo mixer e poi... C'è il segnale in arrivo, poi c'è quello in partenza, i VAR e l'SVR, cioè puoi misurarsi nel stazionale. Tutto completo, Gappa, gappa, adesso tutto, c'è una bella occasione, Gianni, se lo sta leggendo, un pensiero io se lo sto facendo anche io, perché mi piace tantissimo quell'apparato, veramente bello. Gli strumenti sono due o tre? Col frequentimetro più i canali sono tre. Roberto! Dimmi già! Io me lo sono ordinato! Gappa, ci sto facendo un pensiero anche io, me. Se riesco a fare una questione, forse lo prendo anche io. Una modulazione siccome è grande, mi sono stufato, allora ne ho comprato un altro, tutto lì. Perché ho altri, ho altri 13 Federico, c'è un 77, c'è un altro 400 canali, e non ti ricordo se no qua mi arrestano, vedi un po' tu. Ma non è stato di chi lo braccio? Perché c'è anche la sfera dei 40 metri ed è più forte, anche perché c'è un M37 attaccato, però c'è un'antenna, c'è una mantova 1, invece questo c'è un'antenna a larga banda che può andare da 26 a 30 MHz e dunque un po' di un po' mangia, capito, un po' perde. Ma la prima cosa è un riverbero o un eco di parte? È un eco. No, c'era una portante sopra, rifai un passaggio con la tua voce, vai, volevo sentirla, se non ti piace naturalmente. Non mi serve. ho sentato lì. Comunque ti parlo lo stesso, eh. Ah, ma non me ne frega niente, figurati. Oh, non me ne frega. Però ho fatto molte volte per scherzare così, a fare casino un po'. E siamo tutti così a parlare, cioè a fare lì, a dire cose serie, no, ma molte volte mai. Vabbè, ma io sono a scherzare, l'ho fatto, un crepo. Comunque questo è fatto una voce massa, che sta nascondendo dietro il microfono, ce l'ha con te, Manu, eh. Ma l'ha giocato, tu non ascoltarlo, se non è che gli abbia stufa. Esiste Marcello, così vedete se così vecchio di frequenza non lo prendete le cose. Tu non lo ascolti e basta, continua a parlare con noi, fregatene. Thank you. un Rivarosi che ti giocavi tu, hai la stare la bambina in faccia. Vabbè, adesso non si gioca più. È troppo grande adesso giocare. Vabbù, riprendi che io continuo, là. Già riprendo per salutare, perché devo fare cose anche io, che si sta facendo tardi. Salutoni Roberto, Aladino lì e tutti quanti. Ciao, salutoni a tutti. Tante cose calde. Faccio un'attaccata a questo e lì. Ciao, ciao, campagnolo. Cosa campagnolo? Che c'è la casa del campagnolo? Ma scherzando sta. Prima sei arrivato molto più basso, vedi un segnale di 5, mezzo da fa o tre quarti da fa. Il segnale conoscete voi, io ho ragioni, come fate a dire gatto, boh. Ah, io mettevo a piombo, chi è che ha sopramodulato? E qua ti vai, ciao Giovanni. Comunque, niente, questa ricorsione alla Maria della Forza, boh. Vabbè, sto chiedendo, ciao a tutti, Giovanni! Giovanni, non si cagino chiude, non è stati a combattere come noi, per carità. Ma allora c'è qualcuno che li ha la veloce, che sta facendo lo stronzo. Giovanni! Sei andato davvero questo, fa cosa che miseria. Va bene, ciao, saluto a tutti, comunque vado via anch'io, ci risentiamo domani quando riesco. E buonasera, è passata della bene, ciao. Ciao Manolo, è tu, come ben sei uscito? Ciao Manolo, ciao, buonasera, grazie a te. Ero qua alla porta, sono qua, ho un casino, Ti passo, ti passo, ti passo. Marocchi, marocchi, marocchi. Guarda, no. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ci sentiamo. Cosa la gamba? Insomma, fondo scala sta arrivando, la mia malattia, no? Prendi conto, fondo scala. Ma tu, guarda chi non ti deve. Vabbè, domani mi viene partita, vero? Thank you. dire che è finito. Ma lei ha fatto già un buco per mettere il tasto del PTC. È quello che devo fare, devo completare appunto il coso, come si chiama? Lo schermo, come si vuole chiamare? La base, tutto quello devo completare, perché non ho avuto tempo, devo fare dei lavori di luce, capito? Che non li hanno sollecitati, dunque. Tutto a me. presidente insieme, io ho trovato. Perché c'è un treno lì, un altro che voglio ammazzare un treno. Ah, e forse mi giuro io, se clienti è me. Ti piace, agnello di Dio. Comunque Luca. Ehi, ah. Sono due le persone, uno, questo qua è pazzo, quello di prima della portante era 9:20, arrivava qua. Claudio, ma come voi stanno pensando con la nuova volta arrivata? grande, ottima radio, ottima radio. Perfetto, ottima veramente. Faccio. Parliamo un po' di parlare ogni tanto, anche quello fa la sta bugiando. Quello che va e ci comporta molto bene anche in ricezione. E soprattutto in trasmissione. C'è un bel po' di latte. Vabbè, non c'è anche molto. Ma prima non c'era casino, può fare bene. Sì, sono venuti in contatto perché c'era questo qua, tutti i no, prima erano fare su 5, se non ricordo, presto quando, e quando erano portati non si capiva più niente, loro parlava a Toclarato, alla fine siamo andati io e mi pare chi c'era, un altro, io 10, o nel giorno che vanno me la metto. Ma sul canale 5 era fatto perché? Guarda, sicuramente non mi ricordo, non eravamo su 10, non eravamo su 5, non mi ricordo, però c'era un po' di ricavo, però facesse che parlava uno sopra l'altro, alla fine non c'era questo con la portante, non faceva parlare a nessuno, a quel punto abbiamo volato. Ah, questo quando c'ero io eravamo qua su 10, ci siamo soltati su 21. Sì, ma anche dopo, successivamente io ero con il portatile, però c'era ancora brutto, ho visto. Sempre brutto, sempre brutto. Sempre brutto. Fatto bene io a portarmi. Vabbè. Allora lui. Allora. Mi ha sorretto qua, 10 minuti, non mi tanto, una mezz'oretta, no, sono un'oretta. Lo faccio questo telefono. Niente, ma sei arrivato la radio? No, quella che hai visto tu. Ah, ma non sono acquistato, no? No, quella no. Ho visto un mare giusto di tempo, vero? figlia non fa il dolce, non fa il compagno. Insomma, noi vogliamo una più di una mezza a casa, che c'ha 26 gradi qua dentro, ma è ancora freddo. È freddo, sì, è troppo, sta piovendo qua. Mi sa che noi ci dice il luogo, ma è tu a casa il carduccio, nemmeno è freddo. Io prima di entrare mi sono fatto sigarette e tutto, ho detto, non esce più, basta. Il nuovo di giambatte, le pantofoline, non si vuole più di gas. Perché? Perché ho già morto io avanti. Adesso non esco, un attimino. Mi prendo le sigarette da voi. Però un freddo in occhi, adesso non sono sempre aperte, ma freddo la cani. Ma tu sei proprio da con le abbecchi, sì. Io tutto vanno tu, ma esce come di più, non li chiudo io, no, assolutamente. Poi anche io lo lascio aperto, la mattina ho detto, quando usciamo noi lasciamo la finestra aperta e le fuggibili quasi tutte quante abbassate, ma poi una volta che rientro, a parte quando sta cucinando, o io o mia moglie, quella di cucina rimane aperta, però le altre sono sempre chiuse, e no, io non mi accadi la gas. No, vabbè, qua le persiane sono chiuse, le finestre sono fatte, ma lo vedo solo a te. Ma c'era la bottante? Bottante c'era? Ora a me mi sembra un po' sciatto, via. Ciao, con quello? Ma chi sei? Chi sei a tu? Noi ci siamo già, ma già la vedo la portante. Ma dove è partito il canto? Ma non so, cane, arriva 9 qua, 8, 9. Arriva lì, ci siamo, arriva Luca con il polo, su per giù con la scuola segnale lì, però non ti so dire io se è qui, se è lì, se è là, non ne ho idea. No, ma sono accorto io, per il quale faccio molto forti. E intanto i segnali che arrivano qua sono quelli, e quindi orientativamente le zone le conosco tutte, faccio. Bisogna vedere. Ah, non lo so, la guccia per l'Igliani, stava pensando una cosa poco fa, Anna, bambolina, non ha più compreso la massa, nel bolso, il bolso della nostra resa, di tutto nel bolso. Ah, sì. Dimmi, cosa hai detto? Ti ha provato il capo? Sì, cioè, ne ho regalato io anche. Perché di nuovo si stia svegliando questa mania di disturbare. Era un periodo che era tutto tranquillo. Non lo so, vabbè. Evidentemente è tornato l'arrembaggio, questo signore, ma il tempo di stabilire due connessioni, poi vediamo che se mette la portata, glielo diciamo subito, vabbè. Vabbè, che faccia quello che vuole, Cla. Ma era anche per la musica, però la portata, la testavo il segnale. E allora? E allora era fortissimo il segnale. Non lo so, ripeto, io non posso dargli io un segnale perché io dicevo come ricevo. Però aveva un senso. È una bomba, quanti hanno loro questo? Questo è il polo. Ma mi senti, Claudio? Mamma mia, ma che ti stai arrivando? Ma che? 7, sì. Stazionale, sicuramente sono a 3. Sicuramente sono a 3. Vedi un grande che sono a chi, non è lui. Però si dispone, lui fatti così, con questo tipo di elettrico senza baum, senza nulla, fanno sempre male, fra, sempre. Ma infatti il baum ci vuole sempre, io ce li ho, ci vuole il baum perché regola tutto e funziona molto meglio, capito? Sarebbe levata l'impedenza, così puoi fare solo un tipo di 45 metri, boh, però devi mettere la convertita, devi calarlo, spostare i bracci, accordarti man mano che giri sul tetto la direzione, fatti un bussino orizzontale, e vai da casa. Ah, c'è la faccio tu, quello glielo faccio scendere a terra, lo faccio il cimetrizzatore e poi praticamente li risciallo i fili. Lasciando il po' freddo un braccio, il po' caldo all'altro, capito? Poi faccio il cimetrizzatore a vedere se migliora, perché diversamente non si può fare nulla. No, fra, è così, fate così. Sì, li puoi utilizzare, certo, con la colletta non vai, ti accorgi, io sto per ascoltare, ma per la mia trasmissione, non è così. Come potrebbe anche essere, come fa la larga condensatore chiaramente al circuito va in tensione, quindi la tensione sulle montanti non sullo strumento si abbassa e quindi lo strumento chiaramente non ha più quella tensione, quindi invece di salire rimane fermo a quella misurazione lì. E tutto normale, lo strumento è un microamperometro quello. Sì, ma è lì il problema, tu. È lì, sicuramente è lì, però c'è manco lo schema elettrico, nulla per vedere un pochino quali valori hanno questi componenti, su quale base sono stati montati, dove, perché l'ho venduta, non ho mandato la Cinetti, adesso è un farabutto di quelli grandi buoni, cosa, vabbè che positivo, vabbè, non è piccato, una radio così bella, di poter fare la trasmissione, ma non poter fare la ricezione, non ti accorgi di quell'effetto se uno manda in aria, cioè dovresti avere un'antenna e dovresti comunicare per vedere quel problema lì. Lui sicuramente l'ha preso, l'ha attaccato alla rete elettrica, l'ha acceso, l'ha collegato allo strumento, gli ha fatto collegare con un carico positivo, l'apparecchio è riuscito a funzionare, l'apparecchio è buono, però per valutare veramente bene un apparecchio, devi prenderlo, attaccare un'antenna e collegarlo per fare la ricezione. In trasmissione ci potete giocare con tutti, se le puoi vendere le bande AM, FM, SNA, bande laterali, ma per quanto riguarda la ricezione l'antenna ci vuole, punto e boh. sociale, siamo anche in cura al centro di salute mentale. malattie sono malattie, cosa vede? Tutte le giornate di lavoro che hai dovuto perdere per metterlo a posto, hai bisticciato col titolare, ho fatto di studio. È tutto, scrivi tutto Luca, scrivi tutto. Antonio, ma non è esattamente così, perché quello che mi ha mandato insomma il campo a me, devono arrivare in 3 giorni. In 3 giorni, io gli ho telefonato. Perché al terzo giorno gli avevo telefonato, ho detto, guarda che la radio qua, non è ancora arrivata. Claudio, la radio non trovo neanche spedita, mi ha detto. Cioè, pizza, arrivi da rimani, la sta lì. Quando è? Oggi è sabato, giovedì arriva, figurati, una settimana ci ha messo. Ma ecco Claudio, la radio non te l'ho spedita, perché? Siccome questo c'ha laboratorio, no? E uno tipo te prova aggiusta soprattutto la radio di queste dimensioni, no? E mi ha detto, prima di mandartela gli ho voluto dare uno sguardo, l'ho attaccata alle mie antenne e radioattore questo. E mi sono accorto che era che praticamente scivolava un pochino. Allora ho fatto tutte le tarature, ti ho allineato tutti i valori qui e là, insomma. E cosa devi dire a uno che ti risponde così? Non è che ti ha detto stronzate. Evidentemente mi si è accorto che la radio non era in condizioni di mandarla, perché io, assieme alla radioattore, mi accorgo subito, scivolo di frequenza, i decimali dice che lampeggiavano, quindi volevano tararti tutto quanto, e me l'ha messo a posto perfettamente, cioè qui perfettamente, cioè è nuova da dentro la fiaccola, e mi ha mandato tutto, monare di istruzioni in italiano, in inglese, in francese, in tedesco, microfono originale, cavo elettrico, cioè il cavo di alimentazione a 220, cavo di alimentazione a 12 volt, mi ha mandato tutto. È una persona così, chiaro, che devo dire, solo che grazie. E anche il mio, comunque, il canale virtuale, quando è stato questo qui, quando è stato molto tempo fermo, poi era acceso, andava in trasmissione, da 27 mega che se ne andava a 25, a 28, a 30, scendeva, risaliva, era già buco di casino. Secondo me l'apparecchio non è modificato niente, che non è stato mai tirato su, punto e basta. Anto, io ho riscontrato una cosa, non so se è così. Allora, lui praticamente con quel microfono, quello MC60, sta uscendo uguale, se lui ti fa le cose, ti fa le prove, esce uguale al microfono normale, né più né meno. E lui pensava che fosse l'MC60 che avesse un problema, perché l'ha aperto, ha visto un ponte qui e là. Allora stamattina lui a me mi ha portato l'MC60 perché doveva venire a prendersi uno schema elettrico che si era dimenticato qua. L'ho attaccato al mio. L'MC60 funziona perfettamente come questo. Capito? Cioè, sia col processore e senza processore si sente differenza a tutto. Quindi io sto pensando che siccome quella radio gli hanno attaccato un tram più 3, siccome se tu gli attacchi un altro microfono, tu lo sai, devi eliminare gli 8 volts, devi eliminare gli 8 volts del connettore, perché altrimenti non va bene, capito? Perché c'è l'alimentazione. Poi io sto pensando che abbiano interrotto l'alimentazione all'interno degli 8 volts, perché con il MC60 non è alimentato. No, ma il MC60 no, Fla, quando attacchi un microfono a queste apparecchiature così, praticamente lavori sullo spinocchio, non lavori sul maschio, non sulla femmina, che sarebbe quella che tu infili, non sul maschio, quello che c'è a pannello. Quindi cosa fai? Se vuoi attaccare per esempio il tram più 3, il più 4, il più 5, usi praticamente 3 cavi, uno che gli dà la massa, uno trasmissione e uno ricezione, anche se l'ricezione non ha bisogno, perché gli basterebbe solo la bassa frequenza, sono alta trasmissione e la bassa frequenza, perché l'ricezione ha con 3 cavi tu sei già collegato, poi gli altri allo spinotto, quello del microfono, non gli colleghi nulla e lui fa lo stesso, e io ci ho collegato il mio sorta di microfono in questi apparecchi. No, ripeto, secondo me non è stato mai aperto da dentro, quindi è sveglia, è la modulazione di quell'apparecchio lì, la, non so se tu te lo ricordi, perché adesso male c'è da molto che di quegli apparecchi non ne hai più, però quando la scelta di fabbrica era così, era muscio, in 27 era una porcheria. bravo, il 27, ma quello non dura così, anche in banda laterale, no, non c'è una spinta. Niente, addirittura, qua non so, ma gli manca la parata la parica, tu non l'hai trovata la parica a casa tua? No, non ho provato niente, stamattina è venuto a portare, ma tre volte non ti ha preso questo schema elettrico di una radio, praticamente, ecco, di questo mezzo l'ho fatto poco, no, quando lo proviamo, io l'ho provato qua sul mio, gli ho fatto mettere le cuffie in monitor e si è asciugato, cioè, il metodo corrisponde uguale a questo, non c'è differenze. No, cioè, ci vuole poco a me, ci dà proposte, ci sono, che tu dici, tu hai un tester e lo misura, nello schema c'è scritto che mi sembra che sia nel piedino centrale gli 8 volt, e uno ammassa e mi vedo che ci sono.